Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Guarda qui con me che ascolta questa canzone. Sai che a me piace arrivare con grande anticipo, sì. Ci pensavo, cioè, mi piace proprio quel senso di arrivare lì anche con la mezz'oretta prima. Per fare le cose con calma. Come va? Non c'è, no, mai. Sono entrato sulla sigla, lo dico perché sennò no, sono sul... Comunque, i Guns N' Roses ieri hanno postato questo capolavoro dell'arte moderna di Bob Dylan, poi certo, rifatto da Eric Clapton, appunto, dei Guns N' Roses, l'hanno postato attraverso il loro sito, i loro mezzi di comunicazione, i loro social network, per la tragedia del calcio brasiliano, che insomma mi fa pensare che ogni tanto ci sia un sottile filo che qualcosa di un'invisibile maledizione che si abbatte sulle favole del calcio. Alza la canzone. Ora non è... insomma, questa è la cronaca, questo è quello che è successo, la strage di Medellin, questo volo caduto ha portato a 71 morti, 6 sopravvissuti, delle 46 persone della delegazione del Chapecoense si sono salvati solo 3 calciatori, sono morti 21 giornalisti, tra le altre cose, 7 membri dell'equipaggio. E tutto il mondo del calcio ha pianto questi ragazzi brasiliani, come è giusto che sia. Ieri un minuto di raccoglimento su tantissimi campi, ma da brividi, quello di Anfield Road, Liverpool. Ladies and gentlemen, in the early hours of Tuesday morning, news began to emerge that a plane had crashed on its approach to the city of Medellin in Colombia. The aircraft was carrying 81 passengers and included players and officials from Brazilian side Associação Chapecoense de Football. The team had been due to play in the final of the Copa Sul-America against Colombian side Atlético Nacional on Wednesday. Tragically, 75 people lost their lives, and tonight we ask fans of both clubs to unite and remember them. A period of silence will begin and end on the referee's whistle. Questo è silenzio, quello vero. Beh, sì, quasi commovente come quanto la canzone di Guns N' Roses. Sì, questa è una di quelle cose che, non per fare sempre disfattisti, veramente dove siamo lontani. Poi in fondo è soltanto un'abitudine, no? Il fatto che in Italia i minuti di silenzio diventano minuti di applausi. Di applausi. Che, a me non piace, però... Però ecco, il problema è che spesso poi quando c'è il silenzio ci sta anche il cretino che urla. Sì. E quindi... c'era chiedersi perché lì il cretino invece non c'è, questa è la verità, è la sostanza. Il silenzio è una cosa di silenzio, è un minuto di silenzio. Il silenzio è una cosa più toccante che possa soprattutto succedere, in un'epoca, no? E vi parla uno degli esseri più rumorosi del mondo, quindi mi autoaccuso, insomma, in un'epoca fatta di rumore, di casino, quindi sono io, al quale io nel mio piccolo contribuisco, il silenzio è una di quelle cose che realmente diventa un pugno allo stomaco, no? Soprattutto sì, quando poi è un silenzio legato a una tragedia così grande. Quindi... Anfield, ma insomma, diciamo la mentalità inglese da questo punto di vista è un pezzo avanti. Non c'è molto altro da aggiungere su questa storia. No. Si dice sempre migliori che se ne vanno. Sì. Non lo so se è così. Non la so se esista di realmente un destino che colpisce le favole del calcio. No, poi ne parliamo. Senti, facciamo due chiacchiere con Leonardo Bertozzi, giornalista, sì, brasiliano, che lavora ovviamente in Brasile per, certo, ESPN, per capire qual è lì il clima e le conseguenze di questo incidente. Ciao Leonardo, grazie. Ciao ciao amici di tutti convocati, ciao. È sempre un piacere parlare con voi. Sicuramente oggi non c'è molto di piacere in nulla, no? È stata una giornata difficilissima per tutti noi. Ieri, ancora oggi, è un giorno molto, molto pesante, perché vengono fuori le storie individuali, no? Di ognuno dei giocatori, ognuna delle famiglie, ognuno dei sogni e dei compagni. Bisogna dire che non è solo la più grande tragedia del calcio brasiliano, anche della stampa brasiliana, perché non erano mai scomparsi tanti giornalisti nello stesso incidente, no? Ed è anche molto triste, perché vediamo una città che perde gli eroi, che perde la squadra del cuore, che è anche per noi, no? Molti di quei giornalisti che abbiamo perso erano stati i nostri compagni, abbiamo lavorato insieme nelle grandi partite, ci vedevamo sempre, no? Così che è ancora molto difficile da digerire, però una cosa che devo dire è che queste manifestazioni da tutto il mondo, questa di Anfield che avete adesso citato, quella del Torino colpito del ieri, Torino, che abbiamo visto anche, sì. E che si dice che c'era uno striscione che diceva uniti della stessa tragedia, sono squadre, no? Il Torino e il Liverpool, che hanno vissuto la tragedia di maniera molto sentita anche, e così che possono capire un poco di quel che stiamo vivendo oggi, no? Quindi ci aiuta molto vedere di tutto il mondo la solidarietà con quello che è successo ieri. Sì, non c'è molto altro da aggiungere. Insomma, gli aspetti sono più che altro di cronaca sulla dinamica dell'incidente, se ne è ovviamente parlato in queste ore. Invece il mondo del calcio come reagirà in Brasile dal punto di vista diciamo pratico, sia delle iniziative ovviamente di solidarietà e di ricordo, che dal punto di vista poi proprio della stagione, che cosa accadrà adesso? Sappiamo che Palmeiras ha appena vinto il campionato. Guarda, la prima cosa che è successa è tutto il calcio in Brasile sospeso, certo, per una settimana. Oggi ci sarebbe la finale di ritorno della Coppa del Brasile, Grêmio contro l'Atlético Mineiro a Porto Alegre, ed è stata spostata al prossimo mercoledì il 7, e domenica c'è la giornata finale del Brasileirão, del campionato, però è anche stata spostata di una settimana all'11. È una giornata di molte cose importanti, perché anche se il Palmeiras è già campione, c'è la definizione degli ultimi due posti nella Coppa Libertadores, anche una retrocessione molto importante, perché l'Internazionale Porto Alegre, due volte campione sudamericano, è a rischio retrocessione per la prima volta. Saranno partite molto importanti. Quello che è già successo è che l'Atlético Mineiro, il rivale della Chapecoense all'ultima giornata, ha chiesto di non giocare, perché l'Atlético non può più arrivare al posto diretto nella fase gruppi della Libertadores, sarà quarto, quindi sa già che dovrà giocare i preliminari, e per Chapecoense non possono arrivare nella Libertadores attraverso il campionato, quindi non ci sarebbe senso 12 giorni dopo la tragedia giocare. È una cosa che gli altri club certamente dovranno condividere, però è questo. No, tra l'altro c'è veramente, ma chiaramente è un aspetto mille anni luce secondario rispetto al dramma ovviamente umano. C'è anche un club che praticamente immaginiamo quasi non esista più, che dovrà rifare completamente una squadra, dovrà costruire una storia, è veramente, ripeto, bella. L'ultimo dei problemi, no? Ecco, nel senso sì, però ovvio che di fronte alle vite umane bisognava prendere le decisioni rapide, soprattutto per la finale che si giocherebbe oggi. Un'altra cosa importante qui in Brasile è molto difficile vedere l'unione dei club per qualsiasi cosa, quindi non abbiamo una cosa semplice che c'è in tutto il mondo, la Lega che organizza il campionato, sì, che è l'unione dei club. Qui no, qui la federazione organizza anche il campionato, perché non vediamo il club che si capiscono, no? Che siano capaci a pensare ad obiettivi comuni. E ieri anche questo l'abbiamo visto, perché vari club hanno firmato un comunicato in cui offrivano ai giocatori in prestiti gratis alla Chapecoense l'anno prossimo, e alcuni di questi club vogliono anche che la Chapecoense non possa essere retrocessa per 3 stagioni a partire dalla prossima. È una cosa che alcuni club vogliono discutere più avanti, certo, quando questa commozione sarà passata, però sono cose che anche saranno discusse dal punto di vista sportivo. Grazie Leonardo, grazie davvero, grazie buon lavoro. Una situazione talmente drammatica e talmente inusuale che chiaramente, fortunatamente, non esistono, diciamo, precedenti, se non ovviamente quelli tragici che conosciamo di Superga o ovviamente Manchester United, ma insomma È chiaro che esiste anche un aspetto, se vuoi, pratico, no? di come questo club tornerà. E a questo punto, sai, l'aspetto pratico diventa anche in qualche modo simbolico, perché comunque è bello che questo club possa continuare, possa essere aiutato, possa andare avanti proprio nel ricordo, nella memoria, per rendere onore a questi ragazzi. Quindi, insomma, una solidarietà comune tra tutti i club. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Tutti convocati. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Oggi acordamos con un nuovo desafio. Pois a vida nos deu una missione differente. Nossos guerreiros viraram heróis e eternizaram suas vidas em uma batalha que fez o mundo parar. A partida de hoje não tem um apito final. Juntos somos mais que 11. Ó, glorioso verde que se expande entre os estados. Questa è una parte del video che il club, il Chapecoense, ha postato in ricordo dei giocatori di questa tragedia. No, dicevo prima, ne parlavamo prima con Pierluigi Pardo, col collega brasiliano, e adesso ne parleremo con Maurizio Crosetti. La mia impressione è che ci sia quasi un'invisibile maledizione che si abbatte sulle favole sportive ogni tanto, Maurizio. Beh, purtroppo non solo su quelle sportive, sì, effettivamente lo sport ha pagato davvero un tributo incredibile, enormemente alto, alle sciagure aeree dal 49, insomma, dalla più importante per noi. I segni sono ancora dentro la memoria di tante persone, quella del grande Torino naturalmente, e fino a ieri, perché certamente lo sport è anche spostamento, è anche movimento di persone nel mondo, e questo poi forse aumenta anche statisticamente i rischi, però in ogni caso la proporzione è qualcosa di impressionante e di dolorosissimo, perché poi chiaramente quando accadono queste cose riguardano quasi sempre giovani, essendo Clay, quindi giovani a cui la gente è vicina, era vicina anche per la sciagura, e poi si entra in una dimensione diversa. Il grande Torino è entrata direttamente in una dimensione leggendaria, ma al di là di questo poi la come una moltiplicazione del dolore, anche dell'insensatezza, no? Sì, riguardano tutte le sciagure, ma questa anche di più. No, ma poi curioso appunto come ci sia questo filo rosso che lega, vabbè, una squadra che era ai vertici del mondo come il Torino, come una squadra che invece stava raccontando una favola come questa brasiliana salita dalla Serie D, che andava a giocarsi una finale di Coppa Sudamericana. Quindi è curioso come ci sia questo. E ieri il Torino che giocava in Coppa Italia, a Torino ci sono state delle, insomma, dei simboli forti, cioè, che sono arrivati anche in Brasile, ci dicevano. Beh sì, è stato molto molto intenso, molto molto forte, non solo simbolico, è come se davvero le cose non smettessero mai di accadere. Cioè, è stato automatico per tutti qui a Torino, ma non tanto per i Granata. Pensare a, non solo su Perga, ma a essere vicini alle famiglie, a questi poveri ragazzi, forse anche di più o diversamente rispetto a come lo sarebbe chi non è mai passato, come quando si condivide un destino quando uno esce da una malattia e capisce di più chi c'è dentro, insomma. Poi il destino, altro che un filo, lo ricorda molto bene oggi il collega Cosimo Cito su Repubblica nel suo pezzo di cronaca di questa tragedia, quando dice che questa squadra acciuffò il sogno della finale in Colombia con un merito, una parata di piede estrema del portiere che fece il miracolo e che allora sembrò appunto il segno del destino sogna, sì, no? Sì, sì, invece sì. Adesso beffardamente proprio quella parata miracolosa, una parata poi che vide soffrire tremendamente questi ragazzi, vennero bersagliati di tiri dall'inizio alla fine, però passarono loro per colpa di quella parata. Pensate cos'è alle volte il destino, bastava che le cose fossero andate il figlio dell'allenatore che si scorda il passaporto e non parte, Edmundo che ha raccontato che doveva essere su quell'aereo ma aveva cambiato piano di volo, cioè per anni quasi ad ogni 4 maggio si andava a intervistare il superstite del grande Torino, Sauro Tomà era il suo nome, che non salì sull'aereo di Superga perché aveva un problema al ginocchio, era infortunato e fu di fatto l'unico tra i titolari, non era titolare ma insomma era nel giro, era un quasi, era la prima, il primo dei non eletti, era la riserva di Virginio Maroso, uno dei più grandi difensori sinistri della storia del calcio. E per tutta la vita quest'uomo non solo ha dovuto raccontare e pagare questa tassa alla memoria una volta all'anno, ma lui proprio si sentiva la colpa di non essere morto, di fatto, anche se non ne poteva niente. Poi scattano anche queste dinamiche psicologiche spesso tra i superstiti, e quindi era impressionante ogni volta incontrarlo. Senti, proviamo a dare una pennellata calcistica di calcio nostrano. Il passaggio è brusco mentre stiamo raccontando queste storie, però vorrei condividere con voi, con te Pierluigi, delle parole di Chiellini che riguardano il momento della Juventus. 800 24 00 24, intanto vi ricordo il numero verde, messaggi 349 238 6666, sentiamolo. Ci siamo confrontati come facciamo dopo tutte le partite, è chiaro che è meglio confrontarci dopo una bella vittoria che dopo una sconfitta come quella di ieri, però credo che l'obiettivo di tutti noi sia quello sempre di migliorarsi e di cercare di trovare il positivo anche dalle giornate storte come è stata quella di ieri. Ieri ne parlavamo io e Pierluigi da questi microfoni, e la mia sensazione è che molto in piccolo, perché la condizione, la situazione è enormemente diversa, però dopo la sconfitta con il Genoa sia successo un remake di quanto accadde in ben altre situazioni dopo la sconfitta di Reggio Emilia. Sei d'accordo Pierluigi, sei d'accordo Maurizio? Ah, prego Piero, no, vai. Io non, francamente non lo so. Lo dice Chiellini. Sì, Chiellini, è chiaro che i leader della Juve debbano assolutamente cercare di suonare la carica e di tirar fuori il meglio da questo momento difficile. Secondo me c'era un passaggio nell'intervista di Chiellini ancora più interessante, che è, se vuoi, abbastanza oggettivo. Cioè, un po' di lamentela nei confronti delle critiche, perché insomma è abbastanza paradossale che una squadra che, lo ripetiamo, in testa al girone di Champions e in testa al campionato con 4 punti venga sostenuta così poco. È vero che ci si abitua, forse anche i tifosi in qualche modo si saranno abituati all'idea di una Juve vincente, per cui il primo posto in campionato viene dato quasi per scontato, il resto è mancia, però insomma il bilancio fino a questo momento dal punto di vista numerico è assolutamente molto molto positivo. Sì, con un sacco di gente rotta, tra l'altro. Ecco, adesso il vero tema secondo me è quello, il vero tema è l'emergenza. È chiaro che Dybala può rappresentare un grande rientro. Il problema è che al di là dei 3 punti persi col Genoa, quello che un po' pesa, secondo me, è che la difesa è tutta da inventare. Sì. E i 45-60 giorni, quanti saranno di Bonucci fuori, insomma, questo mi sembra un po' il tema. Barzagli, che pure rientrerà con l'anno nuovo, Maurizio. Beh, così, certo, la difesa della Juve è sempre stata una delle certezze proprio indiscutibili, non solo di questa squadra ma alla fine di tutto il calcio italiano degli ultimi anni. Anche gli europei siamo arrivati dove siamo arrivati, ancora un po' buttiamo fuori la Germania campione del mondo grazie a una grande difesa che adesso è malandata. Hanno giocato quasi per 400 o poco più di 400 minuti, o forse nemmeno, insieme Barzagli, Bonucci e Chiellini. È chiaro che questo obbligherà Benatia a rendere di più. Può farlo, vista la sua bravura e la sua storia. Obbligherà al coraggio in Rugani, che è un giovane di grande prospettiva e che già adesso può garantire delle buone, buonissime cose. Certo che non sono quei tre lì. C'è da dire che spesso Allegri si è trovato in situazioni con l'infermeria piena anche in passato. Questo può essere un caso oppure no, ci sono infortuni e infortuni, quelli traumatici, quelli muscolari, eccetera. Però se c'è una cosa che si può dire è che anche in passato, pure quando era al Milan, spesso l'infermeria era piena. Sì, è così. Lui poi non è che si mette a piangere per questo, le soluzioni le trova. Ecco, non troverà più la soluzione di Dani Alves, stopper, lo diciamo ovviamente col sorriso, peccato. Se magari potesse giocare stopper la prossima partita significherebbe che non si è rotto la gamba. Però non succederà, e credo che ci sarà anche un po' più di certezza tattica, cioè insomma non si possono più fare troppi esperimenti quando quando si hanno i giocatori contati e quando peraltro stanno per tornare difesa a parte, e la difesa abbiamo detto è il nodo vero in questo momento, però stanno per tornare Dybala e Marchisio con una maggiore continuità, quindi sono due pezzi fondamentali di questo mosaico che adesso è un po' rattoppato, ma rimane sempre potenzialmente, non dico un'opera d'arte, ma insomma un pezzo d'autore. Sicuramente. Non è diventata improvvisamente una banda di Pellegrini. No, non è diventata. Rimane la squadra più forte. La squadra di Italia è una delle migliori d'Europa. Tant'è vero che è l'unica ad essere in testa, lo ripeto, al suo campionato, al suo girone di Champions League nell'Europa intera. Grazie Maurizio, alla prossima. A voi, ciao. I ragazzi di Matt Busby li avete dimenticati? No, abbiamo fatto un riferimento. Non è che bisogna ogni volta la nazionale di nuoto caduta a Brema, sicuramente gli angeli di Brema, ci mancherebbe altro. 2016 siete ancora lì a parlare di destino, allucinante. Io saluto questo 348. È ovvio che poi ci sono delle indagini in corso. Fra l'altro, l'ipotesi più probabile, secondo i giornali brasiliani, è quella di che sia finito il carburante, quindi sarebbe tutt'altro che destino. Però noi non è che facciamo i magistrati, caro amico, esatto. 348. Noi parliamo di destino, nel senso che parliamo della vicenda umana di chi povero si è trovato su quell'aereo ed è morto, e di chi invece quel volo l'ha scampato per un giro del destino. Poi ci sono i magistrati, e chiaramente se ci sono delle responsabilità. Nel 2016, ma per mi pare siano capiremo. Morti anche donne e bambini e papà con questo aereo, non solo una squadra. Solita ipocrisia patetica italiota, ci scrive Totò da Como. Lo salutiamo. Siamo qui, parliamo di calcio e parliamo del dramma di una squadra di calcio. Ovviamente c'è anche il dramma umano delle altre persone. Non è che conti meno, però. Che il mondo del calcio, il mondo dello sport al quale si riferisce questa trasmissione, che si chiama non a caso Tutti Convocati, quindi con un aspetto calcistico e sportivo più complessivamente, sia sconvolto tutto quel nostro mondo, la famiglia richiama questo sport dalla tragedia di una squadra che era in quell'aereo, mi sembra normale. Certo, è ovvio che ci occupiamo questo, e non toglie nulla, caro Totò, al fatto che siano morti, che ci dispiace ovviamente enormemente. Donne, bambini, papà e pure i nostri colleghi. Bene. Va bene, ci fermiamo per la borsa, torniamo 800 24 00 24. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia, il coso rosso, grazie. Sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana storie di tutti i tipi al Falco e il Gabbiano. Enzo Maiorca, il signore degli abissi, con l'apneista Umberto Pellizzari. La tormentata vita di Jerry Lee Lewis, uno dei grandi geni del rock and roll. Un grande attore con un volto che non puoi dimenticare, Carlo Delle Piane. Edward Snowden, che ci raccontò quanto tutti noi siamo intercettati e controllati. E poi la storia molto piccante del più grande playboy di tutti i tempi, Porfirio Rubirosa. Tutti i giorni, alle 15.30, il Falco e il Gabbiano, su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Pierluigi Pardo qui con me, eccolo. In questa prima ora di Tutti Convocati, e i convocati sono Aldo da Cuneo, Daniele da Milano, tanto per cominciare. Poi abbiamo un altro convocato molto illustre che arriverà tra poco al telefono. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare il punto sulla situazione della Juventus, se mi è concesso. Sì. Io credo che i nodi stanno venendo al pettine, nonostante si continui a decantare i primi posti nelle classifiche, che sono figli di congetture, di partite facili, tra virgolette. Infatti io penso che nelle uniche partite dove la squadra è stata aggredita è andata sempre sotto e ha perso, oppure è riuscita a pareggiare o vincere miracolosamente, come è successo a Lione. Beh, voglio dire grazie a Dio, altrimenti avremo la Juve già più 14 su tutte le inseguitrici. Io temo che invece continuando di questo passo rischierà veramente anche il campionato. Lasciamo perdere la Champions, che sicuramente non può pensare di vincerla con un centrocampo di questo tipo. Io sull'avverbio non sono così d'accordo, soprattutto parlando di una competizione come la Champions League. Molte più certezze, come sai, Arrigo Sacchi, Pierluigi, che ha detto: ma dai, non scherziamo, Juventus Uberalles almeno in Italia. Sì, guarda, la vera incognita della Juve è è legata alla tenuta del reparto difensivo, che in questi anni è stato straordinario, al fatto che questo reparto difensivo, anche se è arrivato Benatia, comunque come tutte le cose della vita potrebbe logorarsi con il passare degli anni, un po' di vecchiaia tra virgolette, non me voglia nessuno, sono tutti più giovani beati loro di me, però insomma sicuramente andando a cercare possibili scricchioli in un ingranaggio che in Italia è assolutamente perfetto, si può pensare a quello, e a un centrocampo che non è, no, ma anche perché poi sembra lì per caso a sentire no, Aldo, appunto, non è lì per caso, ma è davanti a tutti, cioè. Non mi pare un caso, e quando uno è primo in classifica, io vorrei la mia percezione, poi magari mi sbaglio, è che la sconfitta di Genova sia stata veramente una sconfitta legata a una sottovalutazione della partita, a un approccio completamente sbagliato del match, in una settimana in cui la Juve ha fatto comunque l'impresa a Siviglia. So che qualcuno scriverà, ma ci sono stati gli episodi arbitrali, benissimo, però la Juve ha fatto un'impresa a Siviglia, si è presa di fatto il primo posto nel girone e ha avuto un calo di tensione sbagliato da sottolineare, insomma ovviamente da condannare, ma un calo di tensione, non mi sembra che ci siano i presupposti per poter parlare di crisi tecnica. No, non penso neanche io. Quindi io penso che sia tutto a posto. Penso che però questa sconfitta, insomma, in qualche modo ci riaccende il campionato, le altre si avvicinano. Ma magari Allegri è chiamato adesso a fare quello che Sarri ha trascurato di fare per molto tempo, cioè inventarsi qualcosa, usare magari la fantasia, in maniera equilibrata ovviamente. Daniele, buongiorno. Buongiorno e intanto complimenti per la trasmissione. Grazie, è sempre bello. Niente, qual è la parte che le piace di più? Il traffico, la borsa? Che cos'è che le piace di più? Quando entra De Luca e fa dei piccoli camei? Ma sinceramente un po' di tutto e di più. Maurizio Crosetti mi sa che è già andato via. Andato via, sì, che c'è, e quindi ecco, Pardo secondo me è fortissimo, anche perché non l'ho mai visto arrabbiarsi in vita sua, né in televisione né in radio, ma vorrei sapere. Incazzati, fai l'arrabbiato, fai la voce d'arrabbiato. Ma no, io in realtà mi arrabbio invece quando ci sono problemi tecnici prima delle telecronache, anzi saluto tutti gli amici fonici li saluto di cuore, li ringrazio di cuore, ma è pura adrenalina. Soltanto nella diretta mi arrabbio un po', sì, in generale nella vita mi arrabbio poco, ma del resto c'ho troppo sonno per arrabbiare. Ma poi si spreca un sacco di energia, sì, no? No, poi ci sarà motivo di arrabbiarsi, veramente. Sono i motivi, ci si incazza. Comunque, però, scusi, abbiamo divagato, prego. Cosa voleva dire? No, ecco, detto questo, anch'io sono un tifoso della Juve e capisco, concordo perfettamente con l'intervento precedente, e anch'io insomma mi chiedo, ma almeno voi, qualcuno, Pardo, secondo te la Juve, che 2 anni fa è andata in finale di Champions, i giocatori te li ricordi di sicuro, sì, e che in 2 anni ha speso oltre 300 milioni di euro, che sono 600 miliardi di vecchie lire, per avere i giocatori, non faccio nomi, che adesso vedi in campo, ma secondo te è una cosa normale? E c'è un direttore sportivo che tutti dicono che è un genio, e ti volevo chiedere a te se non mi sembra che abbia preso dei piperos. No, ma anche perché la Juve ha speso, è vero, ma ha anche incassato, nel senso che ha speso per Higuain e ha venduto Pogba, ha venduto Vidal, Pirlo era a fine carriera, quindi insomma non credo che possa essere un grandissimo rimpianto. Certamente Vidal e Pogba sono due partenze dolorose, però sono due partenze stramonetizzate. Su Morata sappiamo che la Juve aveva pochi margini di manovra, insomma francamente Tevez ha fatto una scelta di vita, detto in Argentina. Io penso che la Juve stia gestendo alla grande dal punto di vista societario la situazione, dal punto di vista del fatturato è cresciuto tantissimo, ha avuto anche la possibilità ovviamente del nuovo stadio che le ha dato un boost, come dicono gli inglesi, c'è cioè una grande spinta, e ha preso un passo diverso da tutte le altre, quindi secondo me le scelte sono state assolutamente giuste. Poi si può discutere su Pogba e Higuain, ecco, su questo si può anche ragionare, però credo anche che possibilità di tenere Pogba ce ne fossero poche. E quindi a quel punto la Juve ha fatto una specie di all-in, per giocare, per usare un gergo, certo, pokeristico, anche perché, no? Deciso... anche perché non possiamo dimenticare quanto dall'altra parte pagavano Pogba, cioè, appunto, per la Juventus, quindi... sarebbe stato impossibile pareggiare quell'offerta, dunque è stato direi un affare per tutti. Sì, Pogba poi compreso. Diciamo che forse la l'acquisto furbo, la genialata di Vidal, era se non sbaglio il 2010 quando è arrivato, una roba così non c'è stata al momento. Su questo posso essere d'accordo, cioè a centrocampo lo scorso anno è stato fatto un acquisto last minute che sarà quello di Hernanes, quest'anno forse si è un po' sottovalutato il problema, a centrocampo diciamo che Paratici non ha ripetuto uno dei suoi capolavori che fu appunto l'arrivo di Vidal. Però in generale il bilancio mi sembra ampiamente positivo. Ci fermiamo per il traffico. Tutti convocati. I love this game. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta convocati. Gianluca, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire che il Napoli, a mio modo di vedere, paga in questo periodo il peccato originale fatto nella campagna estiva, dovuto a una mancata comunicazione tra la società e l'allenatore. Perché se l'allenatore credeva che Gabbiadini non era in grado di fare l'attaccante centrale, la punta centrale, doveva dirlo. Mi pare che l'abbia detto e confermato, voleva il cambio, però che ci sia stato un cortocircuito è vero. Poi sicuramente poteva non succedere ovviamente l'infortunio di Milik. Questo elemento di sfiga c'è, indiscutibile, però che non si sia pensato a un piano B, questo è... Beh, il piano grave, B doveva essere Gabbiadini e non ha funzionato, per ragioni che insomma stiamo discutendo praticamente ogni giorno, quasi fino alla noia. Qual è il primo Gigi Simoni in panchina che ti ricordi tu, Pardo? Ma io me ne ricordo tanti, mi ricordo... No, ma il primo? Il primo? Cioè la prima immagine che hai di Gigi Simoni su quale panchina? Non so farti l'ordine cronologico. Io sono ben preciso. Ricordo un'intervista ad Ancona, bellissima, una giornata di sole, fantastica, 15 anni fa, i tempi di Stream, che noi chiamavamo Strips, così in amicizia, noi che ci lavoravamo, amici di Strips. Come stai, mister? Ciao, bene. Mister. Ciao. Io il primo Gigi Simoni che mi ricordo era sulla panchina del Genoa, pensa un po'. Devo dire anche perché sono più vecchio di Pardo. Sulla panchina del Genoa. Del Genoa. È stata la prima squadra mia. I miei ricordi cominciano da lì. Ha scritto un libro, Gigi Simoni. Sì, ha scritto un libro con un titolo che è veramente. Ma chi si è inventato il titolo? Perché è perfetto. Che il titolo è? Ricordiamo. Il titolo è Simoni si nasce. Tre vite nel calcio. No, ma è fantastica questa cosa. È fantastica tre vite perché tre ruoli, anzi sono quattro, però uno l'abbiamo dimenticato. cosa vuol dire essere Simoni, che in qualche modo confina anche con l'essere signori, se mi posso permettere, perché insomma credo che su questo non ci siano dubbi, no? È una di quelle persone che unanimemente... È andato avanti il nome, sai, bisogna stare attenti. È andato avanti il nome, signore, Simone, il signore, allora sto attento a non perdere questo ruolo. Ma che cosa vuol dire essere Simoni o essere signori? Essere Simoni vuol dire essere un appassionato del calcio che ha raggiunto i suoi scopi, i suoi desideri. Vuol dire uno che è sempre pronto a dare una mano, ma sono sempre pronto a richiamare chi non è del gruppo, che non la pensa come me nei comportamenti. Vuol dire questo, vuol dire fare 1200 panchine. Certo. Con poche ammonizioni, poche espulsioni, qualcuna che ci senta, ricordiamo. Io non posso non chiederle questa cosa, poi parliamo di Napoli-Inter, che ovviamente sono due squadre importanti che fra due giorni si incontrano, però insomma avrà letto i giornali, c'è stata quella battuta di Moratti che nel nel presentare il libro con lei, oltre a tutto l'affetto, insomma, ha detto di quel campionato lì non parlo, gli chiedo scusa per averlo mandato via, e del campionato precedente non parlo perché l'Inter l'aveva vinto. Lei si sente, tanto qua adesso non ci sono gli incendiari da una parte e dall'altra, quindi le faccio soltanto questa domanda senza dover fare il dibattito: lei si sente di averlo vinto quel campionato? Pensa che l'Inter non lo abbia vinto cause? Io sono più cauto. Ah, ok. Io penso che si poteva vincere, perché eravamo a un punto di differenza. Avevamo una serie di partite facilissime noi, più facili delle loro. Quindi può essere che avremmo potuto. Poi nella partita, se diciamo andava bene che l'arbitro ci desse quel rigore, potevamo fare un pareggio, rimanere, e dopo le occasioni le avevamo avute tutte noi, quindi insomma fammi provare, poi no, non certo. So se avremmo vinto, però potevamo vincere. Va bene, quindi più cauto di Moratti, sì. Di Moratti, che ha scelto invece insomma la strada della... Beh, Moratti non può che scegliere, sì, quella, sì, ha detto che quel campionato lì l'abbiamo vinto, non può che scegliere quella, perché quella comunque rimane uno dei punti cruciali della presidenza dell'era Moratiana. Invece, come diceva Pierluigi, scontro Inter-Napoli, guarda un po', due squadre che le stanno particolarmente a cuore, sono anche Pioli contro Sarri, Pioli all'inizio della sua avventura con risultati discreti, con molti gol incassati, però con già un'idea diversa, Sarri che invece è un po' messo sotto, è un po' sul banco degli imputati, come ricordava giustamente Pierluigi. Sai, in queste squadre fai presto andare sul banco degli imputati. Certo. Come perdi qualche partita, che è un fatto. Io, per quello che posso sapere, non devono meravigliarsi. A mio avviso, un pronostico si può fare sempre, e si parla della Juve che vince. Una verità è altrettanto, secondo me, vera, è quella che le altre squadre non ci sono. Non ci sono squadre che hanno dei valori simili. Le altre squadre, scusate, c'ho un po' la pal di gola. Le altre squadre sono squadre che non hanno uomini vincenti. Hanno squadre forti, giocatori ottimi, ma nessuno, io ho visto anche l'Inter l'altra sera, non c'è un giocatore che parla in campo, non c'è un giocatore che ha la personalità di assumersi delle responsabilità, di incavolarsi. Sono tutti lì, sono buoni giocatori. Sì, questo è verissimo. Il tratto comune di tutte le grandi squadre era avere... Però tutte le grandi squadre, prendi la Juve, c'ha tre difensori che sono tre mastini, come con gli avversari, con l'arbitro. Certo. Come c'è un fallo, corrono tutti immediatamente a difendere chi gli sta venendo punito, e quelle altre squadre vivono lì, giocano magari con l'Empoli, perdono, giocano una partita, cioè sì, mancano di leadership, mancano di quella leadership che ad esempio la difesa della Juventus ha in grande abbondanza. Gigi Simoni, la ringrazio, grazie mister, a presto mister, in bocca al lupo. Prego. Saluto anche Pierluigi Pardo. Ci no, rimango. Rimani? Sì, rimango. No, bello lì. No, vabbè. Che dici? Mi vuoi? Ma come? No, devo controllare De Luca che sta là. Ma che smanetti, De Luca. Adesso che cosa abbiamo dopo le tre? Diciamolo. Ti seriamo, facciamo le cose un po' alla tiki-taka. Fa poco, abbiamo, parliamo tra poco, apriamo il capitolo del derby di Roma. Arriviamo, ciao. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Pierluigi Pardo è rimasto, poi entreremo in clima derby che il cui presente avrà la fortuna di raccontare ai telespettatori di Mediaset Premium domenica pomeriggio. Giulio, buongiorno. Buongiorno a voi. Complimenti, dica, per la trasmissione innanzitutto. Grazie. D'ordinanza. La intervista, dico subito che mi ha fatto molto piacere sentire la voce di Gigi Simoni. Sì. E volevo fare una considerazione sulla rosa dell'Inter, su quello che io definisco il grande abbaglio della rosa. E cioè che è una rosa che è vero, è piena di giocatori che sono talentuosi, che sanno anche risolvere spesso le partite da soli, ma è una rosa di giocatori, secondo me, che sono tatticamente molto, molto, molto modesti. Cioè, giocatori che quando devono crossare tirano, quando devono tirare passano, quando devono verticalizzare fanno il passaggio laterale, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, le sembra una rosa male assortita, ma questo è compito anche dell'allenatore, io credo. Non sono dei ragazzini cui devi insegnare la tattica, no? Gente come Candreva, Perisic o chi vuoi tu, non so bene a chi si riferisca Giulio. In particolare è tutta gente che ha una discreta esperienza e un curriculum di tutto rispetto, non mi sembrano esattamente disprovveduti. Se poi vogliamo dire che la squadra deve essere costruita in maniera diversa, ognuno ha le sue opinioni e se le tiene. Certamente all'Inter mancano due difensori laterali, ma questo è un'assenza quasi cronica, quasi storica. Sì, è quasi un destino, no? Vabbè, sì. Ci fu il famoso caso di Roberto Carlos, ma lo sta lì 20 anni fa, poi l'Inter ha avuto ovviamente grandi esterni difensivi. In questo momento certamente lì può migliorare, dai. È il reparto, secondo me. Mike Conn non c'è, insomma. No, direi no. Io. Next Mike Conn is waiting in Malpensa. Okay. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione, vi ascolto tutti i giorni e volevo intervenire sul discorso fatto prima sulla Juventus. Sì. Da tifoso. Personalmente esprimo solo una mia opinione, ma non vedo tutta questa tragedia per una sconfitta o un paio di sconfitte, come dite sempre voi, sempre primi in classifica e quant'altro. Sicuramente la Juventus ha dei problemi da risolvere, ma secondo me molte persone, soprattutto tifosi di altre squadre o critici a priori, vogliono anche solo godere delle piccole disgrazie. Tutto qui. No, ma sicuramente, ed è anche comprensibile, ci mancherebbe altro, visto che la Juve domina da anni. Ed è anche comprensibile che faccia notizia, c'è uno prima che ci ha scritto perché parlate di Juve, ma non so se volete parliamo di altro, non lo so, sì, di pesca sportiva, tra l'altro sport rispettabilissimo. È ovvio che la Juve che perde in questo modo fa notizia, non è che c'è molto da girarci attorno, fa notizia, per cui credo però che sia giusta l'analisi, cioè io penso che la Juve sia in controllo ancora della situazione, semmai debba pensare in prospettiva a come migliorare il proprio centrocampo per la seconda parte della stagione e segnatamente per la Champions. Ma secondo me lo sta già facendo. Saluto professor Michele Plastino, buongiorno. Buongiorno a voi professori. Come va? Bene, grazie. Siamo già in clima derby. Anche al Pier, Ciao, anche sta arrivando. Com'è l'attesa? Sta soprattutto arrivando. Insomma, ci sono appelli da una parte e dall'altra perché possa essere un derby un po' più simile a quelli antichi, pieni di gente allo stadio. Diciamo la verità, l'anno scorso sono stati veramente due derby dal punto di vista ambientale in tono straminore. Che segnali ci sono? Gli stessi, temo. Nel senso temo, questa è una realtà, un po' più di risveglio, se distinguiamo un po' tra ultra e gli altri tifosi, certo. Gli ultra della Lazio perché sono diciamo divisi in curva, per cui una parte della curva andrà e credo che sarà anche abbastanza notevole, quella della Roma non credo, sempre per la questione delle barriere e poi a mio avviso entrambe hanno i problemi di affetto con che non c'è con le società, per cui è così. Però al di là degli ultra c'è da dire, Pier che conosce molto bene la realtà di Roma, è che poi ci sono anche le tribune che non riempiono, perché certo. Faccio una sintesi velocissima. Allora uno, purtroppo è anche una specie di simbolo, non c'entra molto, ma è anche un simbolo di una città purtroppo in declino, che ci auguriamo tutti che possa riprendersi, però Roma è così, Roma in questo momento, ai noi, lo dico da romano, è in una situazione abbastanza imbarazzante. Poi c'è la difficoltà di andare allo stadio, ci si mette anche quella, anche se poi un tempo quando c'era l'austerity si andava a piedi, erano tutti contenti anche di andare a piedi e fare chilometri per andare allo stadio, però adesso è veramente diventato un itinerario difficilissimo quello del tifoso per entrare nello stadio per motivi di sicurezza eccetera eccetera, e quindi aggiungi questo, aggiungi che le società non sono amatissime, soprattutto la Lazio, la Roma è un po' più divisa, il tutto condito poi dal fatto incredibile che poi in realtà le squadre stanno lì, stanno messe ecco, bene. Ma io questo te lo chiedo soprattutto per quanto riguarda la Lazio, perché la Roma sono anni che fa bene, poi gli manca sempre il solito salto definitivo per arrivare centesimo a vincere, per fare la lira, eccetera. Però invece l'inizio di stagione della Lazio, tu sai come la penso, per me non è così sorprendente, ho la fortuna di parlare tutti i giorni in questa radio, ho considerato la scelta di Inzaghi una scelta che non era un ripiego e oggi i risultati vanno in questa direzione, con tutto il rispetto per Bielsa che però secondo me era veramente una scommessa, grande personaggio ma grande scommessa. Inzaghi, bravo, l'aveva dimostrato l'anno scorso, sta lavorando, poi magari 28 punti non me li aspettavo neanch'io. Dico, può cambiare qualcosa? Lo Tito ha fatto un passo indietro quantomeno sul piano della comunicazione, ormai non si vede più, diciamolo apertamente, ha deciso, ha capito probabilmente che era meglio trovare delle figure, ad esempio Peruzzi, che potessero riportare un po' di entusiasmo. Può cambiare qualcosa? Oppure tu dici, tu sei un critico di Lotito da sempre, oppure quella è una ferita talmente grande, talmente profonda, che anche se la Lazio continua a fare questi risultati... Non bastano risultati sportivi per cicatrizzare. Allora, intanto ovviamente cerco di essere soprattutto quello che io vorrei sempre essere, cioè un giornalista, al di là di quelli che sono i sentimenti personali, quelli riguardano il bambino che è in me, no? Quindi è chiaro, io non sono un critico perché non sento più determinate cose che appartenevano a me da bambino, ed è una lacerazione, quindi figurati. Però al di là di questo, no, io credo che la ferita sia profonda, perché ogni volta che succede qualcosa, poi qualcuno che non va allo stadio si perde, non si recupera neanche con i risultati. L'ultima espressione di pubblico fu un Lazio-Empoli di 2 anni fa circa, quando la Lazio stava facendo la rincorsa con Pioli, no? Vi ricordate? Per il Lazio-Inter, tutto il periodo anche della maglia storica. Sì, però no? Lazio-Empoli è più significativa, no? Perché è una partita un po', diciamo, minore. Quella del sorpasso, no? Sì, quando fai 50.000, cioè è importante, certo. No? E poi lì c'è stata la grande delusione estiva, non c'è stata la campagna acquisti, eccetera, eccetera, per cui molti si sono persi definitivamente da quel punto di vista. Però adesso direi che al di là poi di Lotito, ti contesto solo una cosa, Pier, non è stata una scelta Inzaghi, è stata una necessità, sì. Perché era Bielsa, lui era dirottato a Salerno. Poi è stato recuperato addirittura all'inizio, se ti ricordi, il primo comunicato per andare con la squadra in ritiro in attesa di... Poi evidentemente lì si è imposto lui. Inzaghi è bravo. Però Michele, se mi posso permettere, guarda che Bielsa, su questo almeno secondo me bisogna... Bielsa era un tentativo disperato da parte di un presidente non amato dalla larga maggior parte dei suoi tifosi di inventarsi qualcosa di clamoroso per recuperare simpatie. Bielsa era questo. Ma io non sono d'accordo. No, questo va riconosciuto. Scusate, poi... ragazzi, ma secondo me è pressoché impossibile che Lotito possa tornare nel quadro. Però lui quest'estate ha provato a giocarsi questa carta con un personaggio assolutamente carismatico, insomma, che avrebbe sicuramente impreziosito il nostro campionato, no? E sì, poi era così. Con Inzaghi il rapporto c'era, cioè il contratto c'era, è chiaro che l'avrebbe parcheggiato a Salerno. Adesso le cose stanno andando, però io dico c'è anche un lavoro di una società che ha fatto cose importanti, perché poi alla fine alcuni dei giocatori, la scelta di Immobile, faccio per dirti, per citare il primo esempio, insomma mi sembra che abbia lavorato bene, questo è abbastanza indiscutibile, o no? Allora, sempre il giornalista, Sì, sì, certo. Ci sono dei risultati indiscutibili. Però attenzione, perché quando tu fai una campagna acquisti e vendita, per non ti dimenticare che ha venduto Candreva, certo. Che era un pezzo da 90 nella Lazio, quindi qualcosa dovevi prendere, Immobile è riuscitissimo, ma ce ne sono una serie di giocatori che in questo momento dimentichiamo, Luis Alberto al posto di Candreva non abbiamo traccia. C'è quello tedesco di cui non ricordo adesso il nome, che si era detto che era un grandissimo talento e che non so dove sia. Cioè, voglio dire, quando ne fai tante qualcuna riesce e molte non riescono. Però, siccome quello che conta è il risultato finale, perché poi quello è una questione delle tasche della società, io sono d'accordo con te nel dire che questa formazione sarà venuta casualmente, non sarà venuta casualmente, è una bella realtà. Tieni conto che c'è anche il discorso di Keita, che non era, non rientrava nei piani, perché non ti dimenticare che una delle prime cose fatte da Peruzzi è stato un comunicato dove diceva che Keita fingeva di essere infortunato. E lì è stato bravissimo Inzaghi, quindi adesso al di là di tutto, il grande protagonista di questo momento della Lazio per me è proprio Simone Inzaghi. Psicologicamente, tecnicamente, tatticamente è lui in questo momento la Lazio. Assolutamente, però io ti dico che secondo me poi c'è, però poi c'è Bastos che l'abbiamo visto, insomma, ci sono tante cose di una società che secondo me a riflettori spenti su certe cose è brava. Poi quello che manca e che giustamente viene rimproverato è il salto di qualità, e l'abbiamo visto nella famosa estate del terzo posto. Il salto di qualità non c'è mai. Ma forse e capisco, non è neanche nelle potenzialità di un probabilmente di un, non è nelle potenzialità la Lazio, è cioè ovviamente nella tradizione di una tifoseria che ha vinto tanto nella parte finale degli anni 90, e questo è indiscutibile, anche se poi chiaramente non è durata per un lunghissimo tempo, cioè non si è aperto un ciclo capace di durare 20 anni. Però probabilmente il punto fondamentale è questo qui, no? Cioè quell'ambizione che viene frustrata, perché tutte le volte che la Lazio si avvicina alla possibilità di tornare a vincere qualcosa di realmente importante, poi il salto di qualità sì, non poi c'è. Poi sai vincere non ci riescono neanche gli altri che non si chiamino Juventus. Ci sono la Juve. No, hai ragione. No, ma guarda che la contestazione poi questa cosa della non è neanche esattamente questa, è proprio una questione che è talmente difficile da spiegare in chi non ha vissuto dentro la storia della Lazio che sembra ridicolo. No, è una questione, guarda, molto molto viscerale, dall'allontanamento di Lovati, ecco, capito, tanto per dire, non voglio entrare, sono delle cose diverse, perché poi io sono d'accordo con te sulle campagne acquiste, difficilmente ho avuto qualcosa da ridire. Sì, sui difensori magari c'è una specie di maledizione, perché dopo una partita e mezzo c'è sempre un infortunio, non riusciamo mai a giudicarli, e bisogna capire quindi se erano già infortunati o non erano infortunati, sono tante piccole cose, però la Lazio ti infiamma un centrale e poi non gioca più, e quindi è difficile poter dare un giudizio. Anzi, in questo periodo chi mi sta impressionando a sorpresa per le referenze che avevo a Monaco è Wallace, cioè sì, Wallace sta facendo molto bene, per esempio, quindi sono colpi riusciti e colpi meno qualche riusciti. Qualche volta l'abbiamo affrontato l'argomento anche poi nei nostri viaggi insieme, e il tema si riduce in una parola, che è lazialità. ed è qualcosa appunto di viscerale, di profondo. E che se non la vivi e non vivi quella realtà non puoi capire. Però io volevo solo una cosa, se permettete, ci tengo molto, ma il copyright del termine, lo sappia, era il mio. Poi paghiamo, Michele. Paghiamo il copyright. È per dire che in uno speciale che tu vorrai fare, io ti spiego che cos'è la lazialità, perché ogni squadra ha una sua area, ha un suo karma, no? Per cui la lazialità è quella della Lazio, che è molto particolare, che ha bisogno di determinate cose per sopravvivere. E questo è realmente il tema, perché io mi rendo conto, vivendo al nord, questa cosa è molto difficile da spiegare, no? Molto, cioè, difficile secondo da me capire. Agli occhi di uno spettatore, un tifoso dell'Inter, della Juve, che valuta le ultime stagioni della Lazio dal punto di vista, quello del Toro lo capisce meglio. Sì. Sicuramente, o anche quello della Fiorentina magari lo capisce, o anche meglio, o anche quello del Napoli. A questo proposito io voglio chiedere ancora una cosa a Michele Plastino, che conosce benissimo la realtà napoletana da parte nostra, soprattutto da parte di qui presente Pardo, no, ma anche da parte mia, conosce anche lui bene. Esatto. Sempre là. Viene messo sotto accusa l'integralismo di Sarri. Dove sta sbagliando l'allenatore del Napoli? Un po' di fantasia, è chiaro, l'organico, gli infortuni, qualche incomprensione di mercato, la rottura con Gabbiadini, tutte cose che sappiamo. Ma secondo te, Michele, dove sbaglia Sarri nel non trovare un'altra soluzione che non sia quella precostituita? Guarda, il problema è questo, che questo lo potevi dire l'anno scorso, perché l'anno scorso lui parte con un modulo, a mio avviso sbagliato, poi trova nel 4-3-3 il massimo di quello che poteva dare quella squadra, e quello che si poteva criticare era: ma come mai quando qualche cosa non va non ti metti, che ne so, 4-3-1-2, 3-5-2, quello che ti pare, e c'erano dei motivi di ragione. Ma adesso il problema serio è che non c'ha veramente il centravanti. Per cui qualsiasi altro modo, immagina adesso se tu dici non deve giocare 4-3-3, deve giocare 3-5-2, e chi metti a fare le due punte? Cioè lui ha veramente in questo senso delle serie difficoltà. Ritengo Sarri un ottimo addestratore, il problema del Napoli sembra come quello ritornato con Benitez, una mancanza di personalità, cioè in certi momenti di difficoltà è una questione proprio di psicologia di gruppo, capito? Cioè c'è qualcosa che non va, è come se gli mancasse, poi a parte il centravanti, qualche cosa. Sì, però l'anno scorso c'erano giocatori che di personalità sembravano averne da vendere. Ragazzi, mi viene con, centravanti, con un centravanti il Napoli avrebbe 7-8 punti in più, però il punto è... No, parlavo di gruppo, di personalità di gruppo, non individuale. Però sai, la personalità di gruppo, il calcio è anche un gioco nel quale poi alla fine spesso gli attaccanti ti risolvono le situazioni, no? Nel senso che il Napoli arriva mille volte sulla tre quarti avversaria, al limite dell'area di rigore avversaria, e poi manca proprio della soluzione, manca della capacità di un giocatore di portarsi via l'uomo con la fisicità lì in mezzo. Quindi secondo me questo è un alibi, è una motivazione e ci sta come ragionamento, però che non si sia pensato a trovare un sostituto di Milik o un'idea di gioco alternativa, questo è vero, perché insomma io ribadisco, da Sarri mi aspettavo in questa fase di più, e rimane il fatto che ha avuto maggiore fantasia magari anche nel proporre qualcosa di nuovo, di diverso. Non è una situazione facile sicuramente, e non è colpa sua, perché gli è capitata una cosa della quale lui non ha colpa, cioè l'infortunio della sua unica prima punta. Però allora bisogna chiarire Gabbiadini, era lì che bisognava fare una chiarezza iniziale, certo. Si cede e si prende una punta vera. Esatto, se non pensi che... Esatto, o quantomeno prendi un Duván Zapata della situazione, cioè un giocatore che se succede un problema al tuo attaccante principale puoi far entrare. Perché veramente... Per me doveva intervenire il Napoli ed è intervenuto bene la Lazio. Il Napoli aveva l'idea, doveva prendere per me Immobile, per due motivi. Uno, l'alternativa Milik, anzi poteva all'inizio essere per titolare. Posto suo. L'intesa con Insigne, perché avrebbe fatto ancora più gol Insigne, avrebbe segnato di più Immobile, capito che voglio dire? Quindi lì, a mio avviso, ha toppato la campagna. Ma sai, la mia sensazione, Michele, è che da una parte ci fosse fiducia in Gabbiadini, cioè dalla parte della società, dalla parte dell'allenatore questa fiducia probabilmente non c'è mai stata. Questa... Giustissimo. Quindi la società diceva, benissimo, prendo Milik e ho Gabbiadini, e per Sarri invece diceva no, adesso mi prendete Icardi perché è andato via Higuain, io voglio Icardi, lo sapete tutti, ma l'ha dichiarato anche lui apertamente. Aveva ragione. Non è che avesse torto, di sicuro. Ma Gabbiadini non è un centravanti, questa credo sia una realtà oggettiva, non è proprio il suo ruolo. Cioè Gabbiadini per me o gioca laterale e nel Napoli è stracoperto, o il Napoli doveva cambiare ruolo, doveva cambiare modulo, certo. Magari 4-3-1-2 o cose del genere, ma allora c'erano ancora più punte. Sì, e quindi è un serpente che si morde la coda, e in questo equivoco che c'è la crisetta del Napoli. Michele, ti ringrazio. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio forte. Adesso, Pierluigi, salutiamo insieme il mio amico Attilio Cai. Assolutamente. Come più va? Più volte allenatore della tua squadra del cuore, Roma. La Virtus. Io sono anche un po' della Virtus Bologna, devo confessare questo. Ah, sì? Sì, in origine sì, però poi andavo a vedere la Virtus Roma, ovviamente. Sono stati anni belli. Come va? Ciao, Attilio. Ciao, Carlo. Buon pomeriggio. Ciao. Bene. Senti, stiamo dicendo, tu hai allenato per mille stagioni in nazionali giovanili, no? Ad ogni livello. Io e Pierluigi ogni giorno parliamo di una aria nuova che c'è sul calcio. Guardiamo l'Atalanta, guardiamo il Torino, guardiamo lo stesso Milan che è molto verde, eccetera. Nella pallacanestro cosa sta succedendo? Purtroppo non c'è ancora questa ventata di giovani, che in realtà dietro ci sarebbero anche, perché io ho avuto la fortuna negli ultimi 3 anni di allenare nazionale sperimentale, e nazionale sperimentale che 3 anni fa, quando andammo a fare le tournée all'estero in Cina, il quintetto era per Spanghero, che attualmente gioca a Brindisi, come guardia c'era Tonut che è a Venezia, Abbas che è a Milano, Pascolo che è a Milano, e Iannuzzi che dopo anni è arrivato in Serie A. La realtà è che dietro i giocatori ci sono anche. A volte purtroppo invece si va dietro solo ai giocatori americani, è facile andare sempre, invece di fare reclutamento magari nelle leghe minori, perché tutti questi giocatori erano in Serie B all'epoca quando vennero convocati. Adesso si va, è più facile andare dietro le Summer League, vedere certi americani che però, tra l'altro, avendo anche in Italia ridotti i budget, quindi arrivano anche americani di basso livello, che sicuramente, anche se da un punto di vista fisico possono essere meglio degli italiani, però gli italiani hanno senso di appartenenza, hanno più motivazione di far bene, e quindi sopperiscono anche a certe lacune fisiche. Storia recente di Reggio Emilia stia a dimostrarlo. Attivo. Fortunatamente. Tra l'altro, notizia di oggi: esonero a Cantù. Kurtinaitis non è più l'allenatore di Cantù. Si fanno i nomi, leggevo prima, di banchi e di recalcati. Lì abbiamo un proprietario russo, granoso, e che però continua a prendere allenatori sbagliati, ultimi in classifica, e per, nell'ultima partita perfino gli Eagles, i storici sostenitori di Cantù, fischiavano. Questi sono gli errori. Poi sembra un po' la cosa di vista con l'Inter, con De Boer in Italia, insomma il campionato italiano è difficile, poi ci vuole un tempo di ambientamento per capire, sia a livello di giocatori, poi è molto tatticizzato anche in Italia, e quindi andare su certi allenatori stranieri sono certi scotti che devi mettere in preventivo, e poi dopo invece si può saltare. Grazie Attilio, a presto. Abbiamo visto Pardo, dicevo, Pardo in insospettabile movimenti, no, a canestro. Posso a dire, canestro. Ti ringrazio perché guardi di Chitaga, ma una pagina vergognosa. Poi era un pallone da calcio quello, era una cosa. Ma ancora quei vecchi movimenti del Pipo del piede eterno. Guarda che Pardo è uno di noi, viene dal basket. Roba seria, roba seria. Giocavi nella Master. No, non nel Master. Master Valentino. Varie squadre nella zona di Piazza Mancini a Roma. Piazza Mancini, che derby con la Stella Azzurra, derby con la Stella Azzurra. Derby che li hai persi tutti, no? No, non li ho persi tutti, ho perso uno di uno all'ultimo secondo, che ancora a distanza di vent'anni. Ma si vedeva che c'aveva un suo perché, si vedeva in quei movimenti, che non al top della forma, che aveva un suo perché. Ti ringrazio per questo eufemismo leggerissimo, però adesso ci lavoro 6 mesi e sono pronto, coach. Vabbè, ci può stare, purtroppo il livello non è che si è alzato, quindi il livello si è abbassato, quindi adesso è facile. Ci può stare. Pardo prontissimo per la Serie A. Grazie a Tiglio Caio. A voi. Ciao. Grazie Pierluigi, alla prossima. Ciao. Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, Avise Falzone, ciao a tutti, ci sentiamo domani.